Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 8 luglio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e bentornati su Liberi Dentro ed Uradio e TV, ora in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e poi Lepida TV Canale 118. Io sono sempre Caterina alla conduzione con Antonella Cortese di questo programma per il carcere e la città, che fa da ponte tra carcere e città. Antonella, ma qualcosa ce lo devi dire anche tu. Intanto saluto tutti, buongiorno, buongiorno Caterina e poi come sapete ormai lo stiamo dicendo tutti i santi giorni, dal 1° luglio siamo partiti col crowdfunding. Voi sapete che è un momento molto particolare questo estivo e quindi essere ancora con voi, essere ancora nelle possibilità di parlare a tutti, anche alle persone ristrette che in questo periodo di caldo sono nella solitudine e nell'abbandono, è importante, quindi contiamo sul vostro aiuto. Se volete aiutarci, andate sulla piattaforma www.ideaginger.it e cercate il nostro progetto Eduradio e TV e donate. Grazie Antonella per questo invito e ora io parto con le notizie. La notizia è tratta dal Corriere della Sera, inserto buone notizie a cura di Francesca Manca, con Cavalli in carcere, una seconda opportunità non solo per i detenuti. Purtroppo questa è una notizia che parte molto male, nel senso che a fine aprile Claudio Villa, che è il presidente dell'associazione Salto Oltre il Muro, acronimo di ASOM, ha ricevuto una mail dall'attuale direzione del carcere di Bollate, in cui gli veniva detto di chiudere l'attività e di spostarsi entro 15 giorni perché la struttura era ritenuta pericolante, inagibile e pericolosa per l'incolumità delle persone. E ricordo che l'associazione ASOM era presente nel carcere di Bollate già dal 2007 su richiesta dell'allora direttrice illuminatissima di Bollate, Lucia Castellano, per dare una seconda opportunità ai detenuti e ai cavalli arrivati da situazioni di sequestro e maltrattamento. Negli anni la scuderia costruita con materiale di recupero proprio dei detenuti stessi ha ospitato fino a 40 cavalli e ancora oggi pensate che ASOM è l'unica realtà in Europa all'interno di un carcere che si avvale della collaborazione dei cavalli per la riabilitazione sociale dei detenuti. Caterina, questo progetto va incontro ai cavalli maltrattati e recuperati dai sequestri, ma anche alla funzione rieducativa della pena. Sì, è orientato al reinserimento dei detenuti come cittadini liberi e attivi nella società, ma è anche in grado di condividere gli obiettivi di una materia di tutela degli animali e del loro benessere. Negli anni centinaia di detenuti hanno frequentato il corso Conoscere il cavallo a cura di ASOM, sperimentando proprio sul campo il grande potenziale riabilitativo di un animale di oltre 500 kg che ti permette l'avvicinamento e una relazione, ma solo in seguito a un comportamento basato sull'attenzione e il rispetto, perché come sappiamo bene non è facile approcciarsi subito a un cavallo prima di una conoscenza. Non solo, i progetti proposti sono stati seguiti da psicologi, educatori del carcere, ha ospitato diversi convegni, anche di giustizia riparativa, varie associazioni che ha coinvolto negli anni, ma l'obiettivo di tutti i progetti era sempre quello di creare un ponte, anche qui, tra detenuti e utenti esterni. Infatti si dice che per ogni fine ci sia sempre un nuovo inizio, oppure si chiude una porta e si apre un portone, non è così? E infatti dicevo, questa notizia parte male perché si annunciava la chiusura della scuderia, però la buona notizia è arrivata adesso, a ridosso di questa appena descritta, perché nel giro di pochi giorni l'associazione ha trovato una nuova casa per i suoi cavalli vicino a Bergamo, presso il centro ippico La Rosa Bianca, e proprio lì ora si potrà riproporre il progetto che ASOM ha promosso per tanti anni. Sarà una nuova esperienza per tutti, chiaramente anche per i detenuti, quelli naturalmente in articolo 21, che potranno così continuare a trovare lavoro e una seconda opportunità nella nuova sede di ASOM. Caterina, che cosa ci fai ascoltare oggi? Sempre a tema libertà, oggi siamo con Subsonica, Liberi Tutti, è un pop elettronico questo, per un testo su un'idea di libertà veramente assoluta di chi si sente inquinato da una società malata. Ascoltiamolo. Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo come Steve McQueen o come il grande Clint in fuga dai Catraz. trattare niente con chi ha già fissato il prezzo al mercato dei nostri sogni dentro i nostri giorni e per la nostra vita. Liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti. E rieccovi, bentornati sulle note dei Subsonica sulla libertà, questo testo sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Oggi con te Antonella parliamo di libri, possiamo dire? Sì, sì, parliamo di un libro di Gia Bascego, pubblicato da Bompiani, che si chiama La linea del colore. È un libro di un anno fa, non è recentissimo, ed è un romanzo storico di ispirazione ottocentesca, come ama definirlo l'autrice stessa. E tra l'altro mi piace la definizione che dà di se stessa, Giaba, che io tra l'altro ho intervistato personalmente. Lei si definisce somala di origine, italiana per vocazione. Comunque, tornando al romanzo, la sua struttura si articola su piani narrativi spazio-temporali differenti. Secondo me questa è veramente la cosa più intrigante del romanzo. Narra più voci in epoche diverse le storie, tutte al femminile, tra l'altro, di donne alla ricerca della libertà e dell'emancipazione attraverso il viaggio nelle sue diverse declinazioni. Per esempio, quello della pittrice afroamericana Lafanu Brown, che è un personaggio inventato, fittizio, che a metà dell'Ottocento intraprende il viaggio della vita, la cui ultima tappa è Roma. E quella di Leila, invece, curatrice d'arte e nostra contemporanea, perché appunto vive ai giorni nostri, che decide di portare le opere di Brown alla Biennale di Venezia. In queste due storie se ne inserisce una terza, ed è la storia di Leila, che intreccia le vicende di sua cugina Binti, che vuole lasciare la Somalia e tentare il viaggio della speranza. Ci sono tutti temi cari alla Scego: la libertà dei corpi, il diritto al viaggio, l'emancipazione femminile, le migrazioni, il colonialismo e l'anticolonialismo, e l'amore per l'Italia. Quindi tre storie intrecciate tra di loro, ma quanto c'è della vita di Gia Bascego in questo romanzo? Caterina, ti leggo quello che lei dice di se stessa. Dice: io sono italiana, nera e somala. I miei due paesi sono intrecciati, quindi l'esigenza era biografica. Come nera italiana non avevo modelli. Da adolescente mi identificavo con gli afroamericani, ma io sono afro-italiana, anzi, ho un'afrodiscendenza e per questo non posso non pensare alla schiavitù e al colonialismo, che sono i due traumi reali presenti in diverse sfaccettature anche a Roma. Così ho fatto fare alla Fano il viaggio inverso al mio, dagli Stati Uniti a Roma. In più, tra le motivazioni che hanno spinto Gia Bascego a scrivere La linea del colore, c'è anche una riflessione sul nostro modo di metterci in ascolto. Vi leggo ancora le sue parole perché sono esemplificative. Oggi, quando si parla di viaggio dei migranti, l'empatia sembra finita. Un ennesimo libro sulla migrazione non avrebbe funzionato, non avrebbe fatto sentire tutto il dolore. Allora ho unito due idee di viaggio che apparentemente sembrano diverse. La cornice del Grand Tour, il viaggio in Italia che facevano i nobili e la borghesia europea e nordamericana, infilandoci dentro un personaggio inusuale, una donna nera che si sposta con un gruppetto di donne bianche, e il viaggio di Binti, la cugina di Leila. Antonella, in questo libro le vite delle donne sembrano veramente storie molto forti, queste, nonostante tutti i loro accadimenti, ma anche determinate, vero? Sì, decisamente. C'è da dire che Hijab Ashego si è anche ispirata a donne realmente esistite. Per esempio, Edmonia Lewis è stata la prima donna afroamericana che ha ottenuto una certa fama all'estero come scultrice, e anche l'ostetrica Sarah Parker Raymond era un'attivista internazionale per i diritti umani e il suffragio femminile, e soprattutto un'abolizionista. In questo romanzo tutte hanno voglia di sfondare, di cercare di dare valore alla propria vita, di sentirsi libera ognuno in modo diverso. Si scopre anche come si viaggiava nell'Ottocento, questo è grazie a un recupero, uno studio di guide turistiche del tempo, i diari. Insomma, Hijaba ha cercato addirittura di riprodurre un po' il linguaggio ottocentesco, anche con ottimi risultati, devo dire. E a quel tempo, tra l'altro, Caterina, le donne bianche, spesso americane e artiste, venivano in Italia e godevano di una libertà impensabile nel loro paese. Potevano vivere da sole o anche in gruppo e avere una vita sessuale fuori dagli schemi, come poi anche Edmonia Lewis poteva fare perché appunto era omosessuale e in Italia era libera di vivere per come si sentiva. Schego ha voluto creare quindi personaggi forti, donne dalla vita non sempre facile, ma mai sottomesse. Antonella, quindi ora musica. Prima della musica, un piccolo stacchetto virtuoso. E poi vi faccio ascoltare però ancora una canzone della nostra Angélique Kidjo, che canta stavolta con Mr. Easy e Salif Keita, e la canzone si chiama One of a Kind. Liberi dentro ed Euradio TV, un ponte tra carcere e città. Una diversa narrazione dell'universo carcere. In linea con il mandato costituzionale, le pene devono tendere alla rieducazione delle persone ristrette. L'estate in carcere è un tempo infinito di solitudine, abbandono e caldo. Dobbiamo veramente fermarci qua? Aiutateci a continuare a portare le nostre voci nelle carceri dell'Emilia-Romagna. Musica, spunti di riflessione, voci di gente comune ed esempi di grandi personaggi, il tutto condito con un pizzico di simpatia. Il Teatro del Pratello, per Eduradio, ha realizzato epistolario teatrale con le detenute della Dozza e scritture teatrali tra carcere e città. Per Liberi Dentro Eduradio abbiamo costruito delle pillole sulla cultura e la spiritualità islamica. Sostieni Eduradio e TV. Aiutaci a mantenere attivo questo ponte fra carcere e città. Per donare, collegati alla piattaforma www.ideaginger.it e cerca il progetto Eduradio e TV. Superman fly for ya, because you are one of a kind. I'll always have you on my mind, near or far. The others must be blind to not see how special you are. You are Africa. Oh. Rieccovi, bentornati sempre su Liberi Dentro Edu Radio e come ogni giovedì abbiamo il nostro cappellano del carcere Marcello Mattè. Buongiorno. Buongiorno e ben ritrovati. Marcello, finora abbiamo parlato con te del tuo impegno come cappellano, del tuo ministero, del tuo incontro quotidiano con persone di provenienza e di fede anche diverse, però che dire della parola accoglienza? Hai mai fatto esperienza di accoglienza di persone ex detenute oppure semilibere? Sì, credo di aver fatto esperienza più o meno di tutte le forme di accoglienza che si possono proporre nei confronti delle persone detenute, cominciando da quando ero semplice volontario, accompagnando in permesso delle persone detenute che potevano ottenere dal magistrato la possibilità di uscire per incontrare qualcuno oppure per sbrigare qualche faccenda in città, anche semplicemente per trascorrere un po' di tempo libero. Poi ho sperimentato anche la forma dell'accoglienza, sempre per persone in permesso, però che potevano restare anche di notte, pernottare anche, perciò si poteva passare con loro anche qualche momento più rilassato, mangiando insieme e trascorrendo insieme un po' il tempo di tutta la giornata. Infine l'accoglienza, quella più, diciamo così, forse più preziosa per certi aspetti, che è quella di accogliere le persone in misura alternativa, o perché possono usufruire del tempo della semilibertà, o perché appunto vengono affidate in prova ai servizi sociali laddove vengono destinati a una comunità come quella che abbiamo lì al villaggio del Fanciullo, e dove accogliamo 4 persone per il momento che vengono appunto affidate ai servizi sociali e che noi accompagniamo per un percorso di reinserimento sociale. Quindi direi che queste forme di accoglienza, che sono tanto preziose tutte e tre, le ho sperimentate tutte. Hai ragione, sono forme di accoglienza molto preziose, però c'è anche un però, nel senso che forse il senso comune spingerebbe molti di noi esterni, magari che non abbiamo frequentato il carcere, che non abbiamo mai toccato questo ambiente, a chiederci quale sia il senso di accogliere persone detenute, magari proprio facendo riferimento al fatto che la legge considera che hanno sbagliato queste persone. Quindi tu un senso te lo sei dato in questi anni? Ti racconto un episodio. Ho accompagnato in permesso, il suo primo permesso dopo 19 anni di continuati di detenzione, una persona che era appunto, aveva atteso questo momento, l'avevamo costruito con tanto impegno e anche con tanta spendita di tempo, perché sono sempre cose piuttosto impegnative queste. E al suo primo permesso se ne esce, ci salutiamo affettuosamente, amichevolmente, e dopo un po' vedo che si mette a piangere. Io ho pensato, forse stai piangendo per la commozione, per la gioia, e dice no, per la verità, sto piangendo perché in questo momento il mio pensiero va alle persone a cui ho fatto del male, che se sapessero che io in questo momento sto godendo invece di un'occasione per stare bene, di un'occasione di felicità, diciamo così, nel suo piccolo, probabilmente ne sarebbero ulteriormente feriti. Dice, non posso neanche in questo momento in cui sono molto felice di quello che sto ottenendo, in questo momento non posso dimenticare le persone a cui ho fatto del male. Io credo che questo restituisca un grande senso a quelle forme di accoglienza che aiutano le persone anche a rendersi conto ulteriormente di quello che possono aver fatto e a vivere anche questi momenti, queste esperienze come un percorso di riscatto. Grazie Marcello, fra poco dopo la musica ti chiederò di nuovo sulle esperienze territoriali di accoglienza sulla nostra città di Bologna, sì. Ma prima un brano musicale, lo lanci tu? Va bene, io vi propongo un brano di Supertramps che si intitola The Long Way Home, prendi la strada lunga ma vai verso casa. take the long way home. Cause you're the joke of the neighborhood. Why should you care if you're feeling good? Well, take the long way home. Take the long way home. There are times that you feel you're part of the scenery. All the greenery is coming down, boy. And then your wife seems to think you're part of the furniture. Oh, it's peculiar. She used to be so nice. Lonely days turn to lonely nights. You take a trip to the city lights. And take the long way home. Take the long way. E rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Du Radio. Stavamo parlando, come vi accennavo già prima, col nostro cappellano del carcere Marcello Mattè a proposito dell'accoglienza. E ora ti faccio quella famosa domanda. Ne parlavi prima, come opportunità nella nostra città di Bologna c'è la struttura che sorge al centro del villaggio del Fanciullo di Bologna. È un percorso che al momento ospita 4 persone e ha come obiettivo l'indipendenza abitativa ed economica e per ridurre anche drasticamente la recidiva. Ne sorgeranno altre di strutture come questa? Sì, quello che abbiamo sperimentato al villaggio voleva essere l'anticipo di qualche cosa che potremmo a breve fare anche con numeri più grandi. Perché lì al villaggio del Fanciullo accogliamo appunto persone sul fine pena e le accompagniamo a un percorso di autonomia, cioè cerchiamo con loro un lavoro e un'autonomia abitativa, così che il reinserimento sociale non le spinga a cercare la scorciatoia del reato perché non hanno altre alternative. Allora, questa opportunità si darà in una costruzione che ormai è completa, mancano solo gli adempimenti burocratici, che sorge sempre in via del Tuscolano, quindi a pochi metri dalla carcere della Dozza, e che ospiterà almeno 8 di queste persone detenute in misura alternativa, che verranno affidate al CEIS, al Centro Italiano di Solidarietà, che, come ha fatto al villaggio, farà anche lì, le avvierà a dei percorsi di autonomia. È un'iniziativa importante questa perché, a fianco delle tante altre iniziative che ci sono sul territorio, per esempio l'Avoco che ha degli appartamenti, l'Albero di Cirene che mette a disposizione una comunità di accoglienza, l'Associazione Papa Giovanni XXIII che ha tante case nelle quali accoglie persone detenute, questa iniziativa che sorge e che parte fa breve lì in via del Tuscolano è della diocesi, quindi è un'espressione della Chiesa di Bologna. E in questo io come cappellano mi sento molto coinvolto proprio perché mi piace che poter esprimere questa forma di accoglienza che non è soltanto la buona volontà di qualcuno, ma che vuole essere l'espressione di un'intera chiesa che è quella chiesa che è la Chiesa di Bologna. Grazie Marcello, mentre parlavi abbiamo trasmesso delle immagini della struttura nuova che accoglierà le persone. Ritorneremo magari con te non appena aprirete la struttura, anche per farci raccontare quello che state facendo, e ci rivediamo giovedì prossimo. Grazie. Ci conto che si possa avere la possibilità di entrare nel dettaglio di questa esperienza quando finalmente si aprirà. Allora, un brano lo lancio io, a proposito di accoglienza di casa, ascoltiamo Dotan con Home. Run past the rivers, run past all the light. Feel it crashing and burning till it all collides. Strike a match, lit the fire, shining up the sky. As it all comes down again, as it all comes down. As it all comes down again to the sound. The sound of the wind is whispering. mess around us, hear them screaming out. We'll be crying for mercy, we'll be crying out loud. Burn the bridges in our town till the point where we dry out. As it all comes down again, as it all. E come ogni giovedì con il nostro cappellano del carcere Marcello Mattè, noi ci salutiamo e ci ridiamo appuntamento a tra poco con la rubrica Oggi parliamo di, dove avremo una puntata Jailhouse Rock. E quindi seguitela, ascoltatela, è molto bella. E mi raccomando, seguiteci anche domani, scriveteci sempre redazione liberi dentro @gmail.com è l'indirizzo per scriverci, oppure Chiesa Santissima Annunziata via San Mamolo 2 40136 Bologna è l'indirizzo per inviarci una posta. E ringrazio sempre Pasquale Pitagnello al montaggio di queste puntate, Antonella Cortese sempre in regia qui con me, e ci rivediamo domani sempre qui su Liberi Dentro, ore 9 su Radio Città Fujiko. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.